Talento coraggioso, il terzo figlio guardò l'orologio. Doveva passare un'ora circa prima che il clan si riunisse per il pasto serale ed egli potesse sottoporre la sua scelta alla sua approvazione. Per far passare il tempo si volse alla pila di lettere che aveva accumulato mentre la sua mente era assorta dalle faccende familiari. Diverse erano di conoscenti occidentali, molte provenienti dallo Yemen, sollecitavano fondi, senza dubbio. Alcune da compagni di studi che ora servivano in province remote e una di Felice Promessa. Nelle pagine scritte fittamente, l'amico parlava del suo ritorno dall'America avvenuto prima del previsto. Mio padre non è stato bene, sono l'unico figlio maschio di mia madre. Aveva trovato lavoro come traduttore alla società di riforma e la sua lettera era piena di speranza. Il nostro amico Kang Yue-wei è stato convocato a corte sempre più spesso con grande dispiacere della vedova e dei consiglieri imperiali. Non mi sorprenderebbe se il giovane imperatore adottasse una posizione più progressista. Scrivi ai nostri comuni amici nel sud di questi ultimi sviluppi. Una volta tanto, pensò Talento Coraggioso, qualche buona notizia. Sorrise, ricordando il suo primo incontro con Felice Promessa alla stazione ferroviaria di New Haven. Era così felice di parlare, così meravigliato dal cavallo di ferro, dall'acqua che sgorgava da sola, dal bacio che aveva ricevuto da una donna davanti a una chiesa a Springfield. Il suo entusiasmo era come quello di luna di primavera, quando assimilava un concetto. Lentamente, quasi suo malgrado, l'idea si formò in sé. Felice Promessa e luna di primavera, perché no? Settimane prima, quando aveva esplorato per la prima volta le possibilità per sua nipote, aveva tralasciato Felice Promessa perché sapeva che il suo amico aveva in mente di restare all'estero e di lavorare all'ambasciata, ma ora i Wu non erano noti per la loro ricchezza, ma i cinesi continuavano ad apprezzare più la cultura che il denaro e il padre di Felice Promessa era un letterato, un Hanlin. Inoltre, egli era un vecchio amico del venerabile dai giorni in cui i due avevano lavorato insieme per contribuire a fondare l'Istituto Tunguen per interpreti, il primo nel suo genere. La matriarca soprattutto l'avrebbe apprezzato. Inoltre, Felice Promessa aveva studiato all'estero e avrebbe gradito una moglie dalla mente vivace. All'improvviso l'aria pesante dello studio divenne insopportabile e Talento Coraggioso si alzò dalla scrivania e uscì sulla terrazza. Ma la brezza notturna che increspava lo stagno non lo ristorò e pochi minuti dopo tornò nel suo studio per stendere una lettera indirizzata al Hanlin. Più e più volte intinse il pennello nell'inchiostro solo per lasciarlo asciugare. Le parole non venivano. Era arrivato soltanto alle formalità di saluto quando qualcuno bussò discretamente alla porta. Luna di primavera stava sulla soglia, le mani dietro la schiena. Zio anziano, posso entrare? I suoi occhi danzavano e un sorriso aleggiava sulle sue labbra. Lui annuì e lei entrò, fermandosi accanto alla scrivania. Voi mi avete salvato la vita, zio. Davvero? Gli sembrò che la sua voce venisse da molto lontano, come se fosse stato un altro parlare. E come ho portato a termine una simile impresa? Oh, lei inclinò il capo. Col telegrafo? Egli inarcò le sopracciglia perplesso. Col telegrafo, zio, insistette lei. Credo che voi abbiate costruito una nuova linea che arriva direttamente ai nostri antenati. Già comincia a mancarmi, pensò lui. È dall'ora del serpente che aspetto di darvi questo speciale segno della mia gratitudine. Si chinò verso di lui e, togliendo le braccia da dietro la schiena, gli offrì una pera fragrante. Lui la prese delicatamente. Poi la sollevò verso la lampada, studiandola come se fosse stata uno dei vasi bianchi e azzurri nelle sue vetrine, senza vederla. Passarono dei minuti prima che si sentisse sicuro di controllare la propria voce e quando parlò fu quasi un sussurro. Il tuo dono è senza eguali, le disse, e fra sé lo conserverò per sempre come un tesoro. Lei si chinò graziosamente, il collo abbassato, la schiena dritta, il ginocchio che appena sfiorava il pavimento, entrambe le mani che toccavano delicatamente il fianco sinistro. E un attimo dopo non c'era più. Nel giro di un mese le lettere rosse e il contratto furono accettati da entrambi i clan e la matriarca e Neve Fragrante mandarono a chiamare Luna di Primavera. Benché come intermediario Talento Coraggioso sedesse nella stanza, preferì restare sul fondo. Fu sua madre a dare l'annuncio, come se Ciccia non avesse informato Luna di Primavera di ogni fase delle trattative. Nipote, è stato disposto per te un matrimonio dal tuo zio anziano. Entrerai nella famiglia dell'accademico Wu di Pechino. È una scelta estremamente conveniente. Come esigevano le usanze, Luna di Primavera cominciò a piangere. Oh, ti prego, non mandarmi via. Non voglio lasciare la mia cara famiglia. Voglio restare a Shuqiao, non voglio andare nella capitale. Fino a quel momento egli non aveva immaginato quanto brava potesse essere Luna di Primavera nel recitare la parte che la tradizione le assegnava, tanto gli era apparsa diversa dalle altre donne. Avrebbe preferito credere che i sentimenti da lei professati fossero veri, ma benché recitasse bene, lei si tradì quando sbirciò attraverso il fazzoletto per giudicare l'effetto che aveva avuto sul pubblico. Le donne anziane e le schiave, comunque, sembravano soddisfatte, soprattutto dopo che lei ebbe chiesto silenziosamente un altro fazzoletto. Non avrò mai un'altra casa come il mio, Laokia, singhiozzò. Nient'altro in terra e in cielo può eguagliare la bontà, l'onore e le cure che ho conosciuto fra questi cortili. La matriarca, le parole attutite dal ventaglio dipinto che teneva vicino al volto, sussurrò a neve fragrante. Certo, non ha riempito un secchio con le sue lacrime, ma non c'è male, non c'è male. Neve fragrante annuì, asciugandosi le proprie. Così incoraggiata, Luna di Primavera gemette: Oh, oh, oh, la capitale è così distante, non ritornerò mai qui, nemmeno nei giorni stabiliti dalla tradizione, non il terzo giorno dopo il matrimonio, non a Capodanno o un altro giorno di festa. Pechino è lontana, quasi 2500 lì. Tutte le donne ebbero un'esclamazione soffocata a quelle ultime parole. E Neve Fragrante gridò disperata: È così lontano! Non sapevo che fosse così lontano! Allora Luna di Primavera si soffiò il naso e corse ad abbracciare sua madre. Non un giorno della mia vita passerà senza che pensi a voi, madre mia, e pianga. Non recitava più adesso. Probabilmente teme che sua madre cambi opinione, pensò amaramente Talento Coraggioso. Teme di non riuscire mai a spingersi oltre le mura del giardino. E inosservato lasciò la stanza. Gli astrologi stabilirono due date fortunate per la coppia: il 20 di giugno a distanza di 6 settimane o il 20 di dicembre a 8 mesi. Poiché durante l'inverno il ghiaccio poteva ostacolare il viaggio, fu scelto il giorno d'estate e per annunciare il matrimonio furono consegnati alle case di familiari e amici dolci a forma di fenice e di drago sui quali era stata dipinta in zucchero rosso la data propizia. La data imminente precludeva gran parte della pompa e della cerimonia tradizionali. Tuttavia, fin dal giorno in cui la notizia fu diffusa, la residenza dei Chang fu affollata dall'alba al tramonto da parenti agitati, manovali rumorosi, sarti miopi e persone venute a formulare auguri. Ciccia e Vecchio Falco si offrirono di accompagnare la sposa a Pechino e restare là al suo servizio. Il patriarca premiò la loro fedeltà con una somma generosa. La matriarca, con una pipa intarsiata d'argento e una spilla d'oro adorna di piume blu di Martin Pescatore. Fino all'ultimo momento possibile, Neve Fragrante fu indaffarata a sovrintendere ai preparativi per il corredo della figlia e occuparsi dei doni per i Wu, presentandosi spesso da Talento Coraggioso per la richiesta di ulteriori fondi. Il corteo deve impressionare tutta Pechino, non siete d'accordo? Per la prima volta da che egli ricordava, la donna era già in piedi e all'opera il mattino presto, mentre lui faceva il suo tai chi. E per tutto il giorno gli sembrava di vedere in ogni cortile un abito color prugna. Neve Fragrante si affannava intorno a controllare i sarti, a contrattare coi mercanti schierati davanti al cancello, a dare istruzioni agli artigiani accampati accanto al muro degli spiriti in merito al disegno da dipingere in rosso e oro sui 24 bauli di cuoio. A tutti diceva quattro per ogni tipo, uno per ciascuno degli dei del matrimonio, finché divenne una litania. Anche Luna di Primavera era dappertutto, e dappertutto sembrava a Talento Coraggioso di sentire la sua allegria e ne era commosso. Era anche un po' sconcertato, poiché non si presentò più alle sue lezioni e manifestò del rimpianto per aver trascurato il ricamo. Soltanto una volta vide Neve Fragrante e la fidanzata senza far niente. Erano sedute vicino su un panchetto nel giardino del flauto pensoso e bisbigliavano fra loro. Un lento rossore fioriva sulle guance di luna di primavera, e allora seppe che Neve Fragrante stava raccontando alla figlia qualche versione edulcorata dell'albero di melo e dell'albero di pesco. 10 giorni prima della data fissata, lanterne, simboli di doppia felicità in lamina dorata, rotoli rossi di pergamena e tesori della famiglia in porcellana, giada e bronzo furono portati fuori dalle loro vetrine di palissandro per adornare atri e giardini illuminati di candele scarlatte per la festa della fanciulla. Quando tutta la famiglia, tranne Luna di Primavera e gli invitati, furono seduti nel giardino del cipresso, gli uomini e i ragazzi al loro tavolo e le donne e i bambini al loro, ci fu, in attesa della sposa, uno spettacolo pirotecnico con fuochi magnifici che riempivano la notte di stupore. Lei apparve al cancello del trifoglio mentre svanivano le ultime scintille dell'ultimo razzo. Una donna, in un abito rosa adorno di perle, con peonie fra i capelli d'ebano. Nell'aria volteggiavano acrobati, musicisti suonavano e cantastorie cantavano le loro ballate, ma gli occhi di talento coraggioso ritornavano sempre su di lei, che guidava il suo stuolo di serve da un ospite all'altro, da un tavolo all'altro, compiendo il rituale di servire il vino e offrire un brindisi a tutti coloro che erano venuti a festeggiare. Benvenuto, la vostra illustre presenza illumina la nostra oscura residenza. Bevo alla vostra felicità, figlia della casa dei Chang, e io alla vostra, onorato ospite. Alzavano le coppe di vino e le portavano alle labbra, ma Luna di Primavera fingeva soltanto di bere, porgendo la sua coppa a un servo incaricato di svuotarla veramente. Sarebbe stato sconveniente per lei il bere troppo e barcollare in pubblico come gli oziosi al ponte di bambù. Osservandola, Talento Coraggioso immaginò una camera nuziale. E Luna di Primavera che sorrideva, avvampando per il vino i lunghi capelli sciolti. Sul letto, un volume aperto di versi di Li Po, l'ozioso amante della vita che era il suo poeta preferito. Scacciò rapidamente quell'immagine, ma le parole di una poesia di Li Po continuavano a risuonargli nella mente. Notte dopo notte, tengo per lei la metà della mia coperta, aspettando che il suo spirito torni a me. Mentre si avvicinava ai tavoli delle donne, le signore smisero di chiacchierare e di servire bocconcini prelibati alle vicine per sussurrarle complimenti e rassicurarla teneramente. Quando lei si avvicinò per brindare coi cugini, scapoli seduti alla tavola accanto alla sua, ciascuno le cantò a turno un brano di aria dal palazzo dell'eterna giovinezza e dal ventaglio di fiori di pesco, secondo l'usanza. Vedeva lo zio che cominciava a essere affaticata. I suoi gigli d'oro dovevano dolerle, pensò, ricordando il pomeriggio di tanto tempo prima, quando aveva sognato scarpe alate. Oggi sognava felice promessa. E domani sarebbe uscita per la prima volta dalle mura del giardino. Alla fine si avvicinò a lui. Talento Coraggioso si alzò e sollevò la sua coppa di vino verso quella di lei. Zio anziano, siete così solenne. Davvero? Siete forse preoccupato che la vostra indegna allieva procuri fastidi ai voi? Egli non rispose, ma sollevò di nuovo la coppa. Io bevo alla tua felicità, figlia di mio fratello. E io bevo alla vostra, zio. Quando l'ultimo ospite se ne fu andato e gli avanzi furono messi da parte per i mendicanti, Talento Coraggioso si allontanò, solo, verso il suo studio. Le porte scorrevoli erano state aperte ed egli vedeva la falce di luna nel cielo. Un alito di vento fece frusciare alcuni fogli sotto un fermacarte di giada ed egli sfiorò con le dita i simboli di Yin e Yang incisi nella pietra e sentì che ora, senza l'altra scrivania, la stanza sembrava vuota. Accese la lampada e versò alcune gocce d'acqua dal recipiente di quarzo sulla pietra calamaio. Lentamente sfregò la tavoletta d'inchiostro, prese il pennello e scrisse: Caro fratello, abbiamo sentito la tua mancanza alla festa della fanciulla. C'era tutta Xuchao. Molti hanno chiesto di te. Desidero che tu sia il mio intermediario, Ti prego perciò cortesemente di far visita al mercante Sui e di chiedergli che sua figlia, Virtù Splendente, diventi mia moglie. Sigillata la breve missiva, rimase ancora un po' alla scrivania, fissando con occhi vuoti l'interno dello studio. Poi, col cuore gonfio di stanchezza e di malinconia, entrò in camera e si svestì meccanicamente. Le tendine del letto si gonfiarono e sventolarono come lunghe maniche fluenti di sottilissimo velo. Ebbe un sonno irrequieto. Il profumo di fiori di pero lo colse all'improvviso e aprì gli occhi. Una creatura bellissima, che non aveva mai visto in vita sua, aleggiava sulla soglia come uno spirito di volpe, recitando una poesia. Il suo abito aveva il colore dei salici in primavera e la sua voce riempiva l'aria di gioia. Gli sorrise come se si conoscessero intimamente. «Chi sei?» chiese lui. «Tu sai chi sono io». «Perché sei qui?» «Perché è giunta l'ora». «Di cosa?» «Di giocare». «Giocare?» La creatura inclinò il capo da un lato, si legò un nastro fra i capelli e corse via. Era solo. Aspettò. Sul tavolino accanto a lui era rimasto il suo ventaglio. Quando lui lo agitò, lei apparve portando due calici d'ambra su un vassoio d'argento. A ciascun passo i due bicchieri si toccavano. Bevvero il vino, ma questo non placò la sua sete. Lei prese in mano un liuto e cantò delle canzoni. «È ora di giocare», disse di nuovo. «Quali sono le regole?» chiese lui. «Le regole sono queste». E la creatura sollevò i cuscini. Apparve un giardino. Uomini e donne giocavano allacciati come nel libro della nuvola e della pioggia. Improvvisamente lui cominciò a rimpicciolire. Divenne sempre più piccolo finché fu imprigionato nel suo calice. Lei sorrideva sempre, ma ora la sua voce echeggiava. «È ora, è ora! È ora di svegliarsi, padrone!» disse il servo. «Sei la sposa». Affannosamente frinisce la cicala, senza posa saltella la cavalletta. Prima che vedessi il mio signore, il mio cuore era irrequieto, ma ora che l'ho visto, ora che l'ho incontrato, il mio cuore è in pace. Il libro dei canti. I cortili della casa dei Chang risuonavano della musica di corni, cembali, flauti e tamburi, quando l'una di primavera cominciò il suo viaggio di 10 giorni verso Pechino. Il suo volto, sotto il copricapo ingioiellato, era velato e i finestrini, così come gli sportelli della portantina rossa da sposa, erano sigillati. Nessuno deve vedere la sposa finché il marito non solleva il suo velo, dicevano le donne. E così, anche nella cabina dello Yulo diretto a Shanghai, nell'appartamento del piroscafo diretto al nord, e nello scompartimento del treno da Tianjin alla capitale, le tende erano state tirate. Quando l'una di primavera passava da un mezzo di trasporto all'altro, indossava il velo nuziale e la portantina veniva sigillata. Così, per tutto il tempo non vide nulla e udì solo il rumore delle città, dell'acqua che scorreva, il clangore metallico delle ruote e i motori che rombavano come il cuore di un gigante. Dapprima pregò Ciccia e Vecchio Falco, che montavano la guardia fuori della sua camera, di lasciarle dare una sbirciatina. Ma poiché loro si opposero, si rassegnò e si mise l'animo in pace. Più che a quel che l'aspettava, pensava al suo Lao Chia. La festa era andata bene, la nonna non aveva mai riso tanto da quando aveva perso i denti, e la madre aveva parlato incessantemente di tutti i nipoti che avrebbe avuto. Persino il padre aveva scritto due poesie, una per Felice Promessa, una per lei. Le due pergamene sarebbero state appese nella nuova casa. La primavera se n'è andata prima che la conoscessi, cominciava quella per lei. Era il primo segno di attenzione che l'una di primavera ricordasse di aver ricevuto. Il giovane zio aveva mandato le sue scuse e un cavallo in ceramica Tang. L'aveva comprato, pensava lei, non tanto per la sua bellezza quanto come simbolo di combattività militare. Non importava, lei l'avrebbe custodito con cura perché veniva da lui. Le era mancata soltanto la risata dello zio anziano e lei si domandava che cosa lo avesse turbato in un momento per lei così felice. Mentre il treno era fermo nella stazione di Pechino, fu avvolta per l'ultima volta in strati di broccato e di raso, accecata dal velo di seta rossa e dal copricapo ingioiellato e chiusa nella portantina. Poi, questa partì con un sobbalzo, oscillando all'infinito lungo sentieri sconosciuti, finché rimase immobile e una musica filtrò dall'oscurità soffocante. Era arrivata nei cortili del suo promesso sposo. Desiderava aprire la porta, respirare liberamente, vedere qualcosa, se non altro la luce del giorno alla quale il passaggio attraverso il velo avrebbe dato una tonalità rosa. Ma l'usanza imponeva che tre canzoni venissero cantate per mettere alla prova la sua virtuosa pazienza prima che la portantina potesse essere aperta. Avrebbe preferito morire piuttosto che essere giudicata troppo ansiosa. La musica terminò, ci fu un attimo di silenzio e poi i tre colpetti che aspettava. Udì il rumore della carta che veniva lacerata, un alito di vento le sollevò gli angoli del velo, l'aria profumava di incenso. La folla in attesa batté le mani e urlò: «La sposa! La sposa!» Lei cercò di dare una sbirciatina, ma tutto quel che poté vedere, abbassando gli occhi, furono le fenici e le peonie sulla sua rossa veste nuziale, e le punte delle sue minuscole scarpe rosse. Mani femminili la guidarono delicatamente nello scendere e l'aiutarono a reggersi. Per un attimo si domandò se le sue gambe indolenzite l'avrebbero sostenuta. Come sarebbe stato umiliante se fosse inciampata, se qualcuno avesse pensato anche per un istante che i Chang avevano mandato una donna deboluccia. Ma le mani la sorressero finché riacquistò l'equilibrio, poi lentamente si mosse, guidata dalle forestiere che presto sarebbero state sue sorelle e cugine. Tappeti rossi coprivano il percorso, il pavimento della sala delle cerimonie era di legno molto segnato. Mentre attraversava la soglia, vide davanti a sé, poco distante, le scarpe dalle suole bianche di un uomo e l'orlo della sua veste di seta blu. Una voce profonda annunciò l'inizio dei riti nuziali e la musica attaccò. Erano cembali e tamburi o era semplicemente il suo cuore? Senza poter vedere nulla e obbligata a non parlare, fu condotta qua e là a inginocchiarsi a fare kowtow davanti ai membri della famiglia che sarebbe diventata sua e ai loro ospiti. Si domandò quasi distrattamente come potessero sapere che lei era la sposa e non una qualsiasi ragazza infagottata di rosso che era salita per sbaglio sulla portantina. O forse era lei che si era sbagliata. Forse era finita al posto di un'altra. Stranamente il pensiero non la inquietò. Le sembrava di muoversi in una sorta di sogno, come se avesse già vissuto questo giorno in un'altra incarnazione. Che cosa aveva detto il venerabile? Asseconda la vita, bambina mia. Improvvisamente la musica tacque e la folla esplose in applausi ed esclamazioni di giubilo. Ora lei era la moglie dell'uomo che l'aveva seguita passo passo, inchinandosi quando lei si inchinava. Il suono dei petardi e della musica riempì l'aria. Mentre l'ovazione continuava, alcune serve la guidarono fuori dall'atrio, lungo i sentieri del giardino, attraversando soglie di cortili sconosciuti. Davanti a sé vedeva sempre l'orlo dell'abito blu reale e le suole bianche delle scarpe del marito. Infine entrarono in una stanza e le fu detto di sedere a un tavolo. Ci fu un coro di risatine, di mormorii, un rumore di piatti, un viavai di gigli dorati, poi una porta si chiuse e cadde in silenzio. Lei aspettò, ignorando perché tutti se ne fossero andati o quando sarebbero tornati. Si impose di restare calma ad ascoltare e improvvisamente il peso del copricapo le fu intollerabile. Allungò il braccio per massaggiarsi il collo. Qualcuno si schiarì la gola facendola sussultare. Felice Promessa era stato lì tutto il tempo. Lei chinò il capo e chiuse gli occhi, chiedendosi quando avrebbe parlato. Doveva aspettare che lui prendesse l'iniziativa. Il giovane si alzò e venne a sedersi sul divano accanto a lei, ma non disse una parola. Per un attimo l'una di primavera ebbe un capogiro. «Non ora!» pietosa Quanin pregò. Non doveva svenire e toccargli la veste. Lui si alzò bruscamente e cominciò a camminare avanti e indietro, borbottando fra sé. Le parole non avevano senso per lei, ma ne riconobbe il suono. Anche Talento Coraggioso discuteva fra sé in inglese e di colpo si sentì a suo agio. Improvvisamente, come aveva cominciato, smise di camminare e tornò a sedersi accanto a lei. Attesero di nuovo. E alla fine gli disse a voce troppo alta: «Piccola sorella, come sta il mio amico Talento Coraggioso?» Ora anche lei poteva parlare. «Oh, così non sei sordomuto!» «Che cosa te lo aveva fatto credere?» La sua voce le piacque. «Beh, non hai detto una parola?» «Nemmeno tu», replicò subito lui. «Ma io non devo parlare per prima.» «E come lo sai?» «Me l'hanno detto.» «Allora non ti hanno informato che sono in possesso di tutte le mie facoltà?» «No», mentì lei, «non l'ho chiesto.» «Non l'hai chiesto?» «No, non ho fatto domande, nemmeno una. Non so se sei un gobbo rattrappito, oppure un gigante, un damerino o un guerriero.» «E così eri disposta a sposare chiunque?» «Naturalmente.» Pensava forse che non fosse stata ben educata. «Avrei sposato chiunque gli anziani avessero scelto per me», dichiarò con aria virtuosa. Ci fu una pausa. Lo sentì sospirare. «E io sono nelle tue stesse condizioni», disse alla fine. «Non so niente di te.» «Niente?» Mentiva anche lui. «Niente. Come te ho affidato interamente la questione ai miei genitori.» «Allora anche tu avresti sposato chiunque.» «Proprio chiunque.» «Oh!» Delusa si irrigidì ancora di più. Il silenzio ritornò. Infine, felice promessa, si alzò e accostò il tavolino al divano. Lei sentì il profumo dell'anatra di Pechino. «Possiamo mangiare. Presto verranno gli ospiti e può darsi che restino tutta la notte. Se non mangiamo adesso, forse non avremo un'altra occasione.» «Ma io non posso mangiare con questo velo.» «Allora toglilo.» «No.» «Perché no?» «Lo devi fare tu.» «Immagino che ti abbiano detto anche quello.» Lei annuì. «Beh, allora forse dovresti alzarti. Ti prego, fratello maggiore, aiutami a uscire di qui, non ci vedo.» Felice promessa, scostò il tavolino. «Ora puoi alzarti», disse. Luna di primavera rimase assolutamente immobile, gli occhi abbassati, mentre lui le sollevava con delicatezza il copricapo ingioiellato, poi il velo, e li collocava su un tavolino in fondo alla stanza. Per un attimo lei chiuse gli occhi, accecata dalla luce, poi lentamente li aprì, sollevò il capo e all'altezza degli occhi incontrò un bottone d'oro. Sollevò lo sguardo contando altri due bottoni prima del volto del marito. Era molto alto. La sua pelle era liscia. Quando la vide in viso, le sorrise. Arrossendo Luna di primavera, si affrettò a sedersi. «La nostra cena si sta raffreddando.»